Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo del mercato dell'auto, ma anche e soprattutto delle dichiarazioni di Sergio Marchionne rilasciate oggi a Ginevra. Infatti si è aperto oggi il Salone dell'Auto di Ginevra, 84esima edizione, il più importante, diciamo, o tra i più importanti sicuramente a livello europeo, a livello mondiale. Dicevo di Sergio Marchionne, come già vi accennavano i nostri GR, Marchionne, dopo aver detto che la Fiat è sempre filo governativa e che non ha mai lasciato l'Italia ma si sta solo muovendo a livello internazionale, ha aggiunto il Jobs Act, quindi la riforma del mercato del lavoro secondo lo schema presentato da Premier Matteo Renzi, non ci influenza, ma non bisogna minimizzare il lavoro di Renzi, va anzi appoggiato. Poi ha continuato: il mio sogno è la quotazione a New York di FCA entro il primo di ottobre. Ha proseguito poi invece il presidente della Fiat, John Elkann, dicendo: per noi è fondamentale la stabilità politica. Ne parleremo nella seconda ora, così come nella seconda ora parleremo anche di un tema che sta suscitando parecchio mal di pancia. Se ne è accorto solo 24 ore. Perché? Perché oggi è in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge Salva Roma, quello che contiene, al di là delle polemiche sui 500 milioni di euro per Roma, contiene anche la rimodulazione della tassazione sulla casa. Allora, le reazioni le abbiamo già raccontate in questi giorni: la Tasi che può avere una superaliquota dello 0,8 per mille in più a beneficio dei comuni, però i comuni dovranno destinare questi ricavi in più all'introduzione di detrazioni progressive sulle prime case. In realtà c'è qualche dubbio, e lo scopro solo 24 ore, perché c'è il rischio che la Tasi venga da un lato pagata da tutti gli italiani anche per trovare i soldi per il Salva Roma, cioè non è chiaro il rapporto dei vasi comunicanti in questo decreto. Resta comunque la possibilità di pagamento unico al prossimo 16 giugno. Per quello che riguarda invece l'altra tassa, la Tari, ce ne occuperemo più avanti, la Tari dovrebbe portare qualche beneficio, ma in maniera più contenuta come portata economica, la tassa sui rifiuti, grazie all'esenzione per i rifiuti speciali che vengono smaltiti automaticamente dal produttore senza usare i servizi comunali. E in apertura invece ci occuperemo, continua il nostro viaggio nei settori produttivi italiani, e oggi ci occuperemo di un settore che da solo vale 85 miliardi di euro di fatturato e ha mezzo milione di addetti. Mi riferisco all'elettronica e all'elettrotecnica. Perché lo dico? Perché è un settore che comunque ha avuto un fatturato non in calo l'anno scorso, e già questo è un risultato positivo con i tempi che corrono, che però insomma lamenta, come moltissimi settori, direi quasi tutti di questo paese, un calo barra crollo dei consumi interni, e l'unica speranza arriva dall'export. Ma ne parleremo tra poco. Ripeto, sono mezzo milione di lavoratori coinvolti e sono anche settori produttivi di cui ogni tanto non parliamo a sufficienza, perché ci occupiamo più di cronaca, quindi del mondo dell'auto piuttosto che di Alitalia o delle crisi, dei tavoli di crisi aperti. Tra l'altro, a questo proposito, il governo riaprirà il tavolo sulla vertenza Electrolux con un primo appuntamento fissato per domani al Ministero dello Sviluppo Economico. Secondo quanto si apprende da varie fonti governative, hanno fissato già un'agenda di incontri il ministro Guidi assieme al ministro al lavoro Poletti per discutere proprio sul futuro di Electrolux, nel giorno in cui, e queste non sono buone notizie, il CERVED fa la statistica di come si è chiuso il 2013 sul fronte delle crisi aziendali. Beh, non era difficile immaginarlo, però purtroppo c'è una conferma, è stato uno degli anni più duri in assoluto, il 2013, fallimenti, procedure non fallimentari e liquidazioni volontarie hanno superato tutti i record negativi precedenti e complessivamente si sono contate 111.000 crisi aziendali, il 7% in più rispetto al 2012. Che già era un anno non bello, lo dico perché questi sono i numeri con cui poi deve confrontarsi la classe politica e la classe governativa di questo paese. Sono 111.000 imprese che non esistono più dall'anno scorso a quest'anno. E quindi se non si pone un rimedio immediato e urgente perché, che permetta di far respirare quelle che sono ancora in vita, questi dati non verranno ribaltati, anzi. Comunque, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, le altre notizie in breve. Allora, c'è qualcuno di voi che vuole il gallo per la giornata di borsa di oggi? No, non do nessun gallo perché la borsa ha praticamente recuperato quasi tutto, non tutto, però quasi tutto quello che ha perso ieri. Milano più 3,30%, Parigi più 2,40%, Francoforte più 2,30%, Londra più 1,70%, l'America più 1,25%. Non metto il gallo, così come ieri non abbiamo messo il gufo, non mettiamo neanche il gallo perché è praticamente un gioco a somma zero. La borsa oggi, soprattutto, adesso ve lo dirò sui titoli bancari, ha recuperato quasi tutte le perdite di ieri. È chiaro che la tensione in Ucraina si è allentata per adesso e quindi quello che per alcuni operatori era stato anche solo un gran pretesto per vendere è venuto meno. È fortunato chi ha comprato oggi, soprattutto chi ha comprato il Banco Popolare, che guadagna il 9,80%, la Popolare Milano che guadagna il 7,41%, Telecom Italia che guadagna il 6%, Exor che guadagna il 5%, ma anche la Popolare Emilia Romagna che guadagna il 5,5%, Unicredit più 4,70%, Enel più 4,60%, Monte dei Paschi più 4,30%, Autogrill pure e anche Fiat. Iux più 4%, Gtech più 4%, come UbiBanca il 3,80% lo guadagna Mediobanca e Tenaris il 3,60% è il rialzo di Ferragamo e di Unipolsai. Buzzi Unicem, ieri massacrata per via degli stabilimenti dei cementifici che ha in Ucraina, recupera ma poco, per quello che dico attenzione, i recuperi in alcuni casi sono solo parziali, più 2%, andava citata visto il calo di ieri. Per quello che riguarda invece l'euro su dollaro siamo sempre a quota 1,37,31. Lo spread italiano è di nuovo è sotto i 184 punti, siamo ai nuovi minimi dal 2011 e il rendimento del BTP a 10 anni è al 3,44%, è il nuovo minimo dal settembre del 2005, vuol dire che è dal settembre del 2005, da 9 anni fa quasi, che non pagavamo così poco per il nostro debito, per trovare compratori per il nostro debito a 10 anni, che è quello più interessante perché va a fotografare come curva l'affidabilità nel medio-lungo termine di un paese. Non presti soldi a uno Stato che ritieni possa essere inaffidabile, non li presti perlomeno con una scadenza a 10 anni. E quindi vedere che il BTP è sceso al 3,44% è un'ottima notizia. Devo dire, il contesto finanziario internazionale è tutto a vantaggio del neo premier Renzi, questo va detto, nel senso che è da novembre, dall'inizio del 2011 che non vedevamo uno spread così basso, con tassi di interesse così bassi, quindi questa dovrebbe, è un'opportunità da sfruttare, visto che probabilmente se si manterrà questo spread avrai un costo a fine anno per gli interessi sul debito di qualche miliardo più basso rispetto al 2012 e di svariati miliardi più basso rispetto al 2013 e di svariati miliardi più basso rispetto al 2012. Per quello che riguarda i cambi, anche il rublo è risalito dopo, non tantissimo, però è risalito dopo il ritiro delle truppe russe dalle manovre al confine, dopo le dichiarazioni di Putin che la Russia non vuole la Crimea in parte ha scaricato Yanukovych. La borsa di Mosca questa mattina ha rimbalzato, ieri aveva perso oltre il 10%, oggi ha recuperato un 5,26%. E la Casa Bianca ha annunciato un pacchetto di aiuti da $1 miliardo per sostenere il governo ucraino. In realtà è un pacchetto di aiuti che comprende $1 miliardo di garanzie sui prestiti per compensare l'eventuale perdita di sussidi energetici da parte della Russia. Del resto l'Ucraina deve trovare $35 miliardi nei prossimi 2 anni per far fronte alle scadenze del suo debito, la parte che è in valute estere. 13 miliardi di dollari di debito ucraino scadono quest'anno, i 15 miliardi di aiuti promessi dalla Russia sono, come immaginabile, congelati e le riserve della Banca Centrale Ucraina si stanno rapidamente assottigliando, erano 20 miliardi a dicembre, pensate che sono già scese a 12 miliardi. Quanto alla valuta locale, la grivnia si sta rapidamente svalutando, ha perso il 20% di valore negli ultimi 3 mesi, la banca centrale inutilmente, ed è per questo che ha assottigliato anche le sue riserve, ha speso parecchie risorse per difendere il cambio, adesso ha mollato il colpo, lo sta lasciando fluttuare liberamente. Dicevamo dell'Italia, del dato che emerge dal CERVED sui fallimenti anche l'anno scorso, anzi a nuovo record l'anno scorso, ossia, a chi mi contesta, il meno 3% seguito da un più 3% in borsa non è un gioco a somma zero, infatti ho detto 3 volte ha quasi recuperato tutto il suo valore, quasi, però restiamo al tema dei dati del CERVED. 111.000 chiusure di aziende, più 7,3%, è andato particolarmente male l'industria manifatturiera, faccio notare che la Confindustria, e noi più modestamente, lo segnaliamo da anni che chi sta pagando il prezzo più alto in questo momento è l'industria, soprattutto la parte manifatturiera e anche dei servizi, che è molto legata ai consumi interni, che lì è un massacro. E il nord-est, allora, pensate che i concordati preventivi nel 2013 hanno fatto più 103% rispetto al 2012, i fallimenti sono stati 14.000, più 12% rispetto al 2012, che era già record in tutti i settori, il fenomeno riguarda tutti i settori, tutte le aree del paese, però l'industria ha fatto più 13%, nei fallimenti, il nord-est è passato a un più 19,7% nei fallimenti, da un meno 3%, erano risultati infatti in calo tra 2011 e 2012, sono ripartiti con un tasso del 20% in più nel 2013. Sulle difficoltà delle imprese, oggi hanno dibattuto in merito ai mini bond. I mini bond sono uno strumento entrato in vigore col decreto legge Destinazione Italia, e cioè il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso più agevoli 2 strumenti finanziari che erano stati introdotti appunto dal governo Monti. I mini bond e le cambiali finanziarie. Le piccole e medie imprese potranno infatti emettere dei veri e propri titoli di debito a breve, cambiali finanziarie, detta in gergo, o a medio e lungo termine, mini bond, allo scopo di ottenere nuove risorse monetarie. La platea di potenziali piccole imprese coinvolte potrebbe essere tra i 10.000 e i 30.000, che vorrebbe dire mettere in moto fino a 20 miliardi di credito aggiuntivo, quindi uno strumento che ancora forse non è stato capito né sfruttato. Come ricorda il presidente del Comitato Tecnico Credito e Finanze di Confindustria, Vincenzo Boccia, al microfono del nostro Francesco De Remigis. È uno strumento nuovo che deve andare verso la cosiddetta disintermediazione rispetto al sistema bancario e quindi dobbiamo stimolare la crescita di fondi cosiddetti di debito che usino lo strumento mini bond per finanziare le piccole e medie imprese italiane. È un elemento essenziale perché è chiaro che le previsioni di credito sono di continua ristrettezza e quindi di continuo credit crunch anche per il 2014 e bisogna, come dire, battere la strada su canali alternativi. È evidente che lo strumento mini bond deve essere considerato un pezzo di un sistema organico, di un'agenda per il credito, per la competitività del paese, a cui inserire i pagamenti pubblica amministrazione, a cui inserire un potenziamento del fondo di garanzia e una serie di strumenti che possano riguardare un'operazione massiva sul credito per il paese. Ricordiamolo, il secondo paese industriale d'Europa con potenzialità incredibili e su queste dobbiamo lavorare. La tempistica però per l'entrata in vigore dello strumento di mini bond l'ha spiegata il direttore generale dell'ABI, Giovanni Sabatini, sempre al microfono del nostro Francesco De Remigis. Il quadro normativo è abbastanza definito. In realtà c'è anche un passaggio culturale che forse richiede tempi più lunghi, però mi sembra che anche i dati che sono stati citati da Borsa Italiana dimostrano che il meccanismo è in moto, quindi insieme anche con Confindustria faremo di tutto per cercare di accelerarlo. Parliamo di mesi o di anni, direttore? Dipende da qual è l'obiettivo che ci poniamo. Se pensiamo di voler arrivare a sfruttare le potenzialità, abbiamo parlato di 15.000 o 18.000 imprese, ci vorrà qualche tempo, insomma. Però secondo me un'accelerazione rispetto alle 15-20 emissioni che abbiamo visto finora potrà esserci in tempi più brevi. Allora, anche il nostro GR, c'era un bellissimo commento questa mattina di Gianluca Nicoletti, si sono occupati di questo contrasto tra la grande bellezza e, come alcuni l'hanno definita, la grande bruttezza, oppure tra un altro film americano, di produzione americana, un colosso vero e proprio che si chiama Pompei, che è uscito in tutte le sale del mondo. E quindi noi abbiamo la Roma che gli americani e gli stranieri associeranno alla Roma bella della dolce vita, con una Roma che adesso vi racconto e che vi raccontiamo, che cade a pezzi. Poi abbiamo un colossal vero e proprio su Pompei che invoglierà decine di migliaia di turisti a visitare l'originale, con Pompei che anche oggi cade a pezzi. È vero che sono il ministro Dario Franceschini ha promesso, dopo la riunione convocata al Ministero dei Beni Culturali e Turismo, di far arrivare a Pompei subito 2 milioni di euro per la manutenzione ordinaria e di avviare tutti gli interventi di somma urgenza. Faccio notare, come oggi scrive molto bene Stella sul Corriere della Sera, che hanno speso per ora dei 105 milioni di euro stanziati dall'Unione Europea per il piano grande progetto Pompei, ne abbiamo spesi solo 588 mila. Nonostante siano stati approvati 55 interventi urgenti, i lavori sono partiti solo per due progetti, mentre di bandi di concorso ne sono stati pubblicati solo 14. Ci sono le lungaggini della burocrazia, i rimbalzi di responsabilità dei ministeri che fanno ritardare i bandi. Dall'altra però anche alcuni imprenditori devono mettersi una mano sulla coscienza, perché se tu vinci le gare d'appalto con il trucco del massimo ribasso e poi i ricorsi di sconfitti e i ritardi nei lavori, tutto ciò fa allungare ulteriormente i tempi. Però lo dico perché in un periodo in cui l'Europa viene sempre attaccata, anche da noi, la gestione dell'euro soprattutto, attenzione che non è una bellissima figura che su 105 milioni noi riusciamo a spendere solo 588 mila, no, per Pompei. Quelli sono soldi europei, sono soldi anche nostri. E questa è Pompei, dove poi scopriamo però anche un'altra cosa, perché io dico, cioè, dove vogliamo andare? Adesso Radio 24 inizierà un viaggio dalla prossima settimana nel sud del paese per andare a raccontare tutti gli elementi di crisi. Il nostro mezzogiorno è massacrato ancora di più del resto del paese, di un paese che è già in ginocchio. Basta vedere i dati economici, la crisi lì ha raddoppiato l'impatto. Però andremo a vedere tutti i problemi e anche le storie di chi invece ce la fa, di chi è riuscito a reagire, di chi comunque è riuscito a fare impresa al sud, nel mondo del commercio, dei servizi, della manifattura. Però voglio dire, qualcuno da qualche parte deve pagare. Io vorrei sapere, non so, nei vari ministeri che si rimpallano i progetti per Pompei, se i capi di dipartimento, i dirigenti rispondono mai per qualcosa, se no vadano tutti a casa e vediamo se è un problema anche di classe dirigente della pubblica amministrazione. Allo stesso modo, io lo dico con la massima tranquillità, ma il direttore degli scavi archeologici di Santa Maria Capua Vetere, Francesco Sirano, deve dimettersi, ma lo dico per, come responsabilità, e le spiego perché. Allora, gli scavi archeologici di Santa Maria Capua Vetere, c'è l'anfiteatro di Spartaco e si nasconde il rarissimo Mitreo, è uno dei più preziosi santuari dedicati al dio persiano Mitra. Che cosa succede? C'è un imprenditore che ha creato un caso di successo, si chiama Amico Bio, un marchio della ristorazione del Casertano che ha aperto anche a Londra, e lui si chiama Bruno Zarzacca, è creatore appunto di Amico Bio, e cosa decide? Decide di invitare 44 tour operator, che sono quelli che poi hanno in mano, per chi non lo sapesse, i pacchetti per portare i turisti, sono quelli che gestiscono l'incoming in questo caso, per cui tornano nei loro paesi o da dove vengono in Italia e propongono i pacchetti, sono fondamentali, diciamo, sono i grossisti dell'offerta turistica. Bene, invita 44 tour operator per un accordo anche intelligente, non a caso questo è una persona sveglia, Bruno Zarzacca, un pacchetto Roma-Napoli che in un sol giorno permette di abbinare il Colosseo, andate a vedere il Colosseo e lo schifo di gestione che tuttora ha il Colosseo, ore e ore di fila per non avere neanche una didascalia, una spiegazione, un qualcosa che accompagni i bambini o o i turisti più sprovveduti, no? E che questo dovrebbe essere il punto di partenza dell'Italia. Andate al Colosseo, fatevi un'ora e mezza di fila e vedete che cosa trovate dentro, nel massimo disinteresse di tutti. Vabbè, andiamo avanti. Comunque, Zarzacca mette in piedi questa offerta che combina la visita al Colosseo e all'anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere. Bella idea, in un sol giorno fai Roma-Napoli con l'alta velocità, ed è un pacchetto interessante che può essere poi riproposto anche in vista dell'Expo, se ci vogliamo svegliare. Benissimo, arrivano i 44 tour operator, visitano la scuola dei gladiatori e poi vogliono vedere il tempio rarissimo del dio persiano Mitra. Che cosa succede? La porta è chiusa al Mitreo, bisogna chiamare i custodi. C'era un cambio di turno, dicono la biglietteria. Va bene, allora l'imprenditore prende i 44 tour operator, li porta a pranzo nel ristorante che hanno aperto proprio negli scavi, Amico Bio. Finito il pranzo, ritornano davanti alla porta del Mitreo ed è di nuovo chiuso, perché dei custodi nemmeno l'ombra. Allora i tour operator si infuriano e vanno via, chiedono rimborso del biglietto, protestano con l'organizzazione che era al suo debutto. Zarzacca è così disperato che dice: a sto punto, se nessuno vuole promuovere questo sito e non c'è una strategia, io chiudo anche il ristorante che ho inaugurato giugno scorso. Allora, in un paese normale non me ne frega nulla di quello che pensano i sindacati. I due custodi vengono i custodi che mancavano vengono licenziati subito. Fine. È alta la disoccupazione a Caserta? Bene, si troveranno due custodi che non vadano in pausa pranzo facendosi coprire dalla biglietteria. Inaccettabile. E lo stesso Francesco Sirano, direttore degli scavi sammaritani, è inutile che dica: sono dispiaciutissimo, li invito a ritornare, li ospiteremo gratis, farò io stesso la guida. Ma che è? Pizza e fichi! Si dimetta anche lei, non lo sapete gestire, andate a casa, su, che è meglio. E da qui però a Roma, perché appunto esce il Colossal Pompei, ma vince l'Oscar la grande bellezza. Allora qualcuno mi sa dire dei vigili urbani del Comune di Roma, perché ogni giorno ce ne sono su 6.000, 1.500, si chiamano pizzardoni forse a Roma se non ricordo male, 1.500 che restano a casa e non si presentano al lavoro? Oh, 1.500 su 6.000. Il 25% ogni giorno sta male. Ma che succede? Io capisco che sia un lavoro difficile, ma che succede veramente? Tra gli assenti, tra l'altro, solo il 14% beneficia delle normali ferie. Gli altri sono a casa per malattia, assistenza familiari malati, corsi di studio non corsi di studio e non specificati altri motivi. È la dislocazione dei malati a lasciare un po' perplessi, perché più si va fuori dal centro storico, più i malati nel corpo dei vigili urbani di Roma aumentano. A Prati, che è zona centralissima, gli assenti quotidiani per malattia sono solo il 3%. A Montemare e Monteverde andiamo al 7%. Tuscolano e Tiburtino hanno malati il 40% dei vigili ogni giorno. È normale questo, Sindaco Marino? È normale? O vuoi bloccare la città pure stavolta? Vabbè, ci fermiamo un attimo perché poi se no mi nervosisco anch'io. Andiamo adesso al meteo e pubblicità. No, c'è una cosa però carina che vi voglio dire, visto che oggi l'inchiesta della magistratura ha scoperto di nuovo la ramificazione dell''ndrangheta al nord, decine di arresti in Lombardia, sequestro, si è scoperta anche una banca clandestina per riciclare. Secondo le indagini, tutti i proventi di estorsione ed usura. Una cosa va detta: hanno sequestrato decine di milioni di euro di beni mobili e immobili, che si è scoperto dalle inchieste e dalle intercettazioni che alcuni imprenditori erano più che contenti di fare affari con l''ndrangheta ed erano più che contenti di avere, diciamo così, un monopolista come interlocutore invece che stare sul libero mercato della concorrenza. Okay? Imprenditori del nord, della Lombardia, dell'Interland, lo dico perché poi ogni tanto c'è certa retorica, tutti sporchi al sud, tutti puliti al nord, ha veramente rotto le scatole, no? Evidentemente, diciamo, mettiamola così, c'è un tasso di illegalità o di propensione a delinquere che non riguarda solo, diciamo, il luogo in cui sei nato, ma i valori che tu hai. Dopodiché è chiaro che se operi in realtà ad alta densità mafiosa ti viene più facile, in Lombardia ti viene più difficile, però poi quando hai la possibilità andate a vedere le intercettazioni, tutti contentissimi, quelli indagati e arrestati, di fare affari con l''ndrangheta. E quindi chiudiamo anche il capitolo dell''ndrangheta al nord. Sette e 38 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Non possiamo continuare sul, lo dico perché mi citate giustamente il caso della Valle dei Templi di Agrigento, uno scandalo, uno schifo, non solo l'abusivismo edilizio lì, ho capito che sono famiglie, ma andate da un'altra parte, ma come anche gestita le didascalie consumate dal sole, cioè veramente, ma dove vogliamo andare? Poi escono i film americani e li pigliamo anche in giro, sti qua. Comunque, sì, vabbè, poi c'è sempre il solito che dice che devo andare a casa anch'io, che sono un servo e un leccapiedi. Sì, ci vado a casa, ma non perché mi ci manda lei, abbia pazienza, ci vado perché ci vado ogni sera quando finisco di lavorare. Allora, ancora sui vigili romani non torno. C'erano dei messaggi interessanti. Mi scrive un ascoltatore che al centro turistico della stazione di Siena, della stazione ferroviaria di Siena, c'è all'informazione turistica, c'è un cartello con scritto "parlo solo italiano", che poi non è che Siena sia proprio l'ultimo dei comuni da visitare in questo paese. Vabbè, la prossima volta scrivi "parlo solo senese", facciamo prima. Anzi, non parlo, io farei "non parlo", come certi ex amministratori del Monte dei Paschi. La borsa più 3,60% più 2,40%, parlavano solo inglese, quindi più 3,60% più 2,40% Francoforte, più 2,45% Parigi, più 1,70% Londra. Recupero per alcuni titoli anche superiore al calo di ieri, per altri solo parziale, più 11,30% il Banco Popolare, più 7%, più 8% la Pop Milano, più 6,20% Telecom Italia, più 6% per 100 la Popolare Emilia Romagna. Livia Zancaner, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, tutto in recupero per il raffreddarsi delle tensioni con l'Ucraina e appunto Putin che dice non vogliamo la Crimea, perlomeno lo dice. Allora, bene anche Wall Street, lo ricordavamo, Unicredit e Buzzi Unicem ieri avevano perso più della media perché Unicredit ha una esposizione, anche se solo lo 0,4% del totale dei crediti in Ucraina, e Buzzi Unicem invece ha due impianti. Hanno recuperato, ma non tutto, mi sembra. No, infatti in realtà Buzzi Unicem ha segnato un rialzo del 2,3%, quindi non ha recuperato le perdite registrate alla vigilia. Unicredit invece ha segnato un incremento maggiore, trainato proprio dagli acquisti sul comparto bancario, che in Europa ha guadagnato oltre il 2%. A trainare anche i titoli del comparto in Italia è stato lo spread, che è sceso a quota 182 punti base, con il rendimento del decennale ai minimi da ottobre del 2005. Ricordiamo che Unicredit appunto ieri aveva perso il 6% circa. Oggi gli analisti spiegano che le perdite registrate ieri in borsa sono state in realtà superiori alle eventuali svalutazioni che il gruppo potrebbe dover fare sull'attività proprio in Russia e in Ucraina, e gli analisti spiegano che lo stesso discorso vale anche per Intesa San Paolo, che oggi ha guadagnato il 3,5%. Allora, per quello che riguarda invece gli altri titoli, abbiamo visto un recupero molto forte. Il Banco Popolare, insomma, qui non c'entra l'Ucraina, abbiamo visto anche vari giudizi sul piano industriale, più 11,27, complimenti. Sì, assolutamente sì, gli analisti sono positivi sul piano industriale 2014 e 2018, che è stato presentato settimana scorsa dall'amministratore delegato. I target di utile netto sono superiori alle attese e anche al consensus degli operatori che lavorano sui mercati, e inoltre ricordiamo che il Consiglio di amministrazione oggi ha dato il via all'aumento di capitale da 1,5 miliardi di euro, che era già stato approvato sabato scorso dall'assemblea dei soci. L'aumento di capitale dovrebbe partire a fine mese per terminare verso la metà di aprile. Ancora, per quello che riguarda Telecom, forte il recupero, più 6,20%, la Telecom novella continua, ma c'è venerdì, se non ricordo male, verranno presentati i conti, no? Sì, allora giovedì verranno approvati dal Consiglio di amministrazione per poi essere diffusi con tutta probabilità venerdì mattina prima dell'apertura dei mercati. Ricordiamo che il titolo aveva perso il 9% nelle ultime 4 sedute, oggi appunto ha recuperato, ha guadagnato oltre il 6%. Gli analisti, per quanto riguarda i conti, scommettono anche su un azzeramento del dividendo, che sull'ordinario l'anno scorso era stato pari a 0,02 euro. In merito ai conti, il consenso stima ricavi in calo di oltre il 20%, mentre l'indebitamento netto ha visto in miglioramento alla fine del 2013 a quota 27 miliardi di euro circa, rispetto agli oltre 28 miliardi del 2012, un dato che è sicuramente positivo per la società. Ancora per quello che riguarda i titoli, visto che poi parleremo di mercato dell'auto, del salone dell'auto di Ginevra, Fiat più 4 e delle dichiarazioni di Marchionne del CAN, Fiat più 4,40%, bene anche Exor, se ho ben visto, eccola qua, più 5,30%. Sì, diciamo che oggi è andato bene il comparto dell'auto in Europa, che ha guadagnato il 3% circa. Per quanto riguarda Fiat, ieri sono stati pubblicati i dati sulle matricolazioni in Italia e negli Stati Uniti. In Italia sono le vendite Fiat sono cresciute del 7,3% a fronte di un mercato che ha segnato più 8,6%, negli Stati Uniti sono cresciute dell'11%, i dati sono comunque migliori delle attese secondo gli operatori, aumentano la visibilità su un buon primo trimestre 2014 per il gruppo. Ricordiamo che oggi l'amministratore delegato di Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, dal Salone dell'Auto di Francoforte, ha spiegato che spera che il gruppo si quoti l'1 ottobre a Wall Street, anche se c'è ancora molto lavoro da fare, quindi questa data potrebbe slittare. Allora Livia, resta con noi, non ci lasciare, il traffico e poi altri titoli, a partire anche dalla Centrale del Latte di Torino, che ha fatto il 37,5% oggi in borsa, con notizie di mercato. Adesso abbiamo scritto schizza la Centrale del Latte, era fin troppo facile, magari invito anche a fare attenzione, però dico, ha fatto un accordo in Cina. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, moltissimi fan di Livia Zancanelli. Ma che, li hai convocati tutti quando fai tu la borsa? Assolutamente. Assolutamente sì. Sì, un appuntamento. No, bella, brava e modesta. Ho tutti i complimenti che non ricevo io, li ricevi tu. Un po' di invidia ce l'ho. Notano anche che sei raffreddata e ti fanno in bocca al lupo. Beh, ragazzi, potete anche scrivere via mail alla Zancanera e lasciateci stare libero il computer per gli sms. Andiamo avanti. Dicevo, Centrale Latte di Torino, più 37,4% per un accordo in Cina? Sì, la società ha fatto un accordo in Cina, cioè secondo quanto riportato oggi dal Sole 24 Ore avrebbe siglato un accordo, un contratto della durata di 5 anni per l'esportazione di latte a lunga conversazione, una bevanda di soia proprio nelle aree urbane del sud della Cina. Ah, di soia, no? Perché dico, trasportare il latte fino in Cina, adesso è vero che è a lunga conservazione, ma per cui è una bevanda a base di soia. Poi i cinesi non bevono latte, cioè non è parte della loro dieta quotidiana. E quindi è un accordo importante che la borsa, il titolo va a 2,90 euro, per cui complimenti alla Centrale Latte di Torino. 2 milioni di litri di export verso la Cina, se ho ben capito, bevande di soia ma anche latte UHT. Meridie più 29,87, Bastoggi più 19,60, El Venture Group più 17,42%. Qui è in ballo un aumento di capitale? Su le venture? Sì. Sì. Sì, allora in realtà la Consob ha chiesto alla società se vi sono motivi per cui il titolo sia salito così tanto. Il gruppo ha detto di non disporre elementi tali da giustificare l'andamento delle quotazioni, ma ricorda appunto, come dicevi tu, che nei giorni scorsi è stato dato mandato all'amministratore delegato per studiare un aumento di capitale per finanziare le attività del gruppo e per conseguire i target fissati nel piano strategico. Poi c'è Valore Italia AXA meno 85%, ma qui sono a 0,0003. Si sta allineando, Livia? AXA, vabbè, mi senti? Sì, no, scusami, non ho sentito il titolo. Perché hai troppi messaggi che ti arrivano dagli ascoltatori. Valore Italia AXA meno 85%, Leone Film Group meno 5,81% e Ambro Immobiliare meno 2,96%. No, mi chiedevo di Valore Italia AXA, se c'erano notizie. No, assolutamente no, come dicevi tu, si parla comunque di uno 0,0003. Allora, per gli altri titoli, Fiat abbiamo detto, Enel più 4,85%, Autogrill più 4,62%, Ubibanca più 4,30%, Gtech più 3,90%, Unipolsai più 3,80%, come Mediobanca. Continuo col Monte dei Paschi più 3,77, più 3,70, diciamo, come Azimut, Ferragamo, Tena e Tenaris. Intesa San Paolo più 3,5 come Finmeccanica. A2A più 3,20%, Generali più 3,20, Pirelli più 3,14, Enel Green Power più 3%, Atlantia più 2,70, ST Microelectronics più 2,60%, Terna più 2,60 ed Eni più 2,5 come Prismian. Grazie a Livia Zancanelli, Radio Cori, Sole 24 Ore. Buonasera. Vedo che molti continuano a scrivere sulla gestione del nostro patrimonio artistico. Io è tanto che non vado alle catacombe, diciamo quelle ufficiali, perché ne ho frequentate altre di carattere più finanziario e politico, però mi scrivono gli ascoltatori che le catacombe sono chiuse la domenica, le catacombe a Roma. Anche questo, no? È bellissimo, perché giustamente la domenica il turista sta a casa, è giusto chiudere le cose la domenica. Ma voglio dire, ma con tutta la disoccupazione che c'è, non si può fare un accordo con chi gestisce questi monumenti? Se ci state bene, se no andate a casa, che tanto qualche giovane, anche qualche cinquantenne che venga a fare il custode lo troviamo, oppure i custodi sono una casta anche loro in questo paese in cui si blocca tutto se tocchi qualcosa? Beh. Allora, i settori produttivi di questo paese, dicevo che continua il nostro viaggio, ci siamo occupati di chi produce occhiali, di chi fa meccanica industriale, oggi è la volta dell'insieme delle imprese che vanno sotto il nome di elettrotecnica ed elettronica, un settore che sembra capace di resistere alla crisi meglio di altri, grazie, vedi un po' tu che novità, anche in questo caso all'ottimo dato sulle esportazioni. Sì, parliamo in questo viaggio che stiamo compiendo nei vari settori industriali, dicevo, parliamo di un settore che da solo vale 63 miliardi di euro e di cui quasi 30 destinati all'export, rappresenta quasi mezzo milione di occupati con 1200 aziende associate in ANIE. Stiamo parlando della Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche, appunto 1200 aziende per 63 miliardi di euro di fatturato, un settore che, se andiamo a vedere i dati dei primi 11 mesi del 2013, gli ultimi dati disponibili, ha visto la produzione dell'elettrotecnica a fare più 0,7 e l'elettronica in generale più 1,7%. E anche qui ci sono attese per le iniziative che muoverà il governo Renzi. Siamo in collegamento col presidente dell'ANIE, Claudio Andrea Gemme, buonasera. Buonasera. Dunque, stiamo compiendo questo viaggio nei vari settori produttivi. Voi appunto rappresentate un settore importante per questo paese di cui ogni tanto non parliamo a sufficienza, elettronica e elettrotecnica. I numeri sono importanti, insomma, 63 miliardi di cui un terzo, più di un terzo, la metà, destinati all'export, si commentano da soli. A vedere il dato sulla produzione per i primi 11 mesi, sembrerebbe di poter dire che siete messi meglio di altri settori industriali di questo paese. Ma meglio non direi, sicuramente se si fa i rapporti anno su anno, siccome anche il 2012 non è stato così fortunato, ci sono dei segnali interessanti nell'elettronica, che poi ciascuno di noi si domanda come può, diciamo, come possono queste aziende sopravvivere e soprattutto esportare e continuare a avere una leadership nel mondo in un contesto dove le tasse che gravano sulle nostre imprese sono un disastro. Sicuramente con l'innovazione, con la capacità dei nostri imprenditori di continuare a innovare, un dato che lei non ha detto, che però è un dato che io vorrei enfatizzare, sono il 4% che le nostre imprese investono in ricerca e sviluppo ogni anno per rimanere update, per rimanere interessanti nel mondo, ma anche nel contesto. Ecco, ma visto che voi destinate il 50% quasi del giro d'affari all'estero, questo basta a controbilanciare il calo, in alcuni casi crollo dei consumi interni, anche nell'elettrotecnica e nell'elettronica? Assolutamente no, non, diciamo che ormai in Italia le imprese stanno agonizzando, stanno morendo per crediti e non per debiti. Devo dire che il lavoro che è stato acquisito negli anni, poi che è stato fatto con grandi sacrifici, poi sappiamo tutti benissimo che non è stato pagato, almeno quello che deriva dalla pubblica amministrazione. Quindi c'è un contesto di lavoro fatto che non è remunerato, una situazione drammatica sulle piccole e medie imprese che non riescono a incassare i loro soldi e non riescono neanche ad avere aiuto dalle banche. E nonostante tutto si continua virtuosamente a investire in ricerca e sviluppo e innovazione. Ecco, su questo la vorrei sentire, però, che siamo a ridosso del GR, dopo il GR, perché mi interessa anche capire non che cosa chiedete, ma insomma quanto tempo potete resistere ancora. Ripeto, vale il settore in Italia mezzo milione di addetti, quindi stiamo parlando di 3 milioni di persone, 3 milioni e mezzo di persone coinvolte, si va delle famiglie e quant'altro. Dopo però il MET, buonanotte, il GR24, sì, Livia Zancanera ha detto latte a lunga conversazione, non conservazione, vabbè, ero un po' emozionata dalle conversazioni vostre, e comunque latte a lunga conversazione non è male, quello che beve qualche mio collega, qualche mio amico. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso arriveremo anche alla Tasi e a qualche sorpresina che avremmo voluto, di cui avremmo volentieri fatto meno, ma e poi alle dichiarazioni di Marchionne, in parte anche di Elkanda a Ginevra. Vorrei però concludere l'intervista col presidente dell'ANI e quindi della Federazione Nazionale di Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche, Claudio Andrea Gemme. Ripeto, 500 milioni di lavoratori coinvolti, 1200 aziende, 63 miliardi di giro d'affari. Gemme, mi dica una cosa, ha chiarito che insomma ve la siete cavata meglio di altri settori nel 2013 grazie sostanzialmente solo all'export e alla capacità anche di investire in ricerca e sviluppo, il 4%. Però insomma, lo chiediamo a tutti i rappresentanti delle varie categorie, delle iniziative che ha annunciato il governo Renzi, il premier Renzi, crediti della pubblica amministrazione verso le piccole e medie imprese, verso le imprese in generale, pesano anche quelle nel vostro settore? Ma soprattutto vorrei sapere, pesano anche i mancati pagamenti da privato a privato? Perché ci occupiamo sempre dei debiti, giustamente, della pubblica amministrazione verso le imprese, ma insomma anche il rapporto nella filiera cliente finale fornitore non è che stia funzionando benissimo. È diciamo un dramma totale, voglio dire, c'è una catena ormai di attese enormi, nessuno paga e quindi voglio dire le grandi imprese hanno difficoltà a portarsi a casa i loro soldi e a loro volta l'indotto, cioè coloro che sono poi rappresentano le piccole e medie imprese, fanno fatica a incassare i loro soldi. C'è un fatto veramente importantissimo di ritardi di pagamenti che ci sta distruggendo il valore dell'impresa. Sì, ecco, voglio essere chiaro, anche tra privati, noi ci occupiamo molto, moltissimo dei ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione, perché quello è uno scandalo, diciamo, visto che tu come Stato chiedi il pagamento nei tempi dovuti delle tasse e a quel punto ci si attende che tu rispetti e tu abbia lo stesso rigore anche quando sei tu a dovere i soldi. Però anche tra privati molte segnalazioni di imprenditori anche di altri settori che sottolineano la difficoltà e come si blocchi l'intera filiera, perché è chiaro che se poi il fornitore paga in ritardo o tu paghi in ritardo il fornitore, mi scusi, e blocchi tutta la filiera, diciamo, del valore in un settore come il vostro. Sono poi dei macro settori che hanno risentito diciamo di questa situazione, ad esempio nel settore delle rinnovabili si era fatto tanto lavoro, poi nessuno poi ha pagato per mille motivi, quindi c'è questo, ce ne sono altri, però di fatto le aziende private soffrono più o meno degli stessi drammi delle aziende pubbliche, non pagano. Allora, veniamo ai crediti della pubblica amministrazione. Renzi ha annunciato 60 miliardi attraverso la garanzia della Cassa Depositi e Prestiti da pagare, visto che sono dovuti alle piccole e medie imprese, e poi riduzione del cuneo fiscale, 10 miliardi. Il presidente Confindustria Squinzi è tornato a chiedere che una parte del cuneo fiscale venga utilizzato sull'IRAP, cioè che della riduzione delle tasse riguardi anche l'IRAP. Ci sono due ipotesi, infatti. La prima è una riduzione secca di quasi il 30% dell'IRAP, utilizzando per la copertura di questa operazione praticamente tutti i 10 miliardi. La seconda ipotesi invece di conferire praticamente il 25%, 2 miliardi e mezzo, al taglio dell'IRAP e il resto invece le detrazioni IRPEF ai lavoratori. Lei quale ritiene più convincente? Ma io direi che tutti i progetti hanno una loro validità e quindi io li porterei avanti in parallelo, tant'è vero che l'ho già detto qualche volta, io vedo il nostro Presidente del Consiglio come un project manager, lui ha un progetto in mano, deve riportare l'Italia a essere competitiva, deve declinare tutti questi aspetti che sono i milestone contrattuali, metterli giù in un pezzo di carta che normalmente si chiama Gantt e cercare di portare avanti nei tempi e quei costi che normalmente un progetto deve avere aggregato delle soluzioni, deve dare delle risposte al Paese. Non si può continuare a parlare di 50 cose senza metterle ordinatamente in un pezzo di carta e nel pezzo di carta mettersi il valore dell'iniziativa e il tempo dedicato per risolvere i problemi legati alle iniziative. Io... Beh, chiarissimo questo ragionamento, le dice il project manager che metta giù un piano d'azione. Io posso anche capire, per quanto il Presidente del Consiglio non sia un project manager, ma posso capire benissimo qual è l'obiettivo. Hai messo sulla graticola tante di quelle iniziative, adesso dici i tempi con cui le vuoi realizzare. Io penso che quelle, diciamo, prioritarie di carattere economico per le imprese, pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, 10 miliardi di riduzione del carico fiscale e anche il fondo per le piccole e medie imprese vadano chiuse subito, cioè ben prima dell'estate, tanto insomma una è un problema, così ha detto, è già risolta, quella della Cassa Depositi e Prestiti, vedremo sul cuneo fiscale, però subito, perché se vuoi avere un beneficio nel 2014 come crescita del PIL un po' superiore a questa asfittica crescita dello 0,6%, i provvedimenti devono partire subito. Grazie a Claudio Andrea Gemme, presidente dell'ANI, e per ora l'unico provvedimento che è partito subito, mi dispiace dirlo perché sembra polemico, però è stata l'addizionale dello 0,8 per mille sulla TASI a discrezione dei comuni nel decreto Salva Roma. Ora, fin qua voi direte, dov'è la notizia? Beh, la notizia, e se ne è accorto Gianni Trovati, che fra un po' gli diamo il premio di gufo onorario di questo programma, la notizia è che quei soldi in parte, se ho ben capito, potrebbero servire anche per il decreto Salva Roma stesso. Ne parliamo subito, 349-238-6666 per i vostri SMS, la pagina di Focus Economia su Facebook. Sì, vedo che molti ci stanno scrivendo che oltre al tema dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione c'è un tema enorme nelle piccole e medie imprese, soprattutto dei ritardo dei pagamenti tra privati, e che lì è difficile intervenire per decreto. Comunque restiamo sul tema della TASI, 0,8 per mille a discrezione, diciamo così, dei comuni, però con l'obbligo che questi ricavi debbano essere destinati all'introduzione di detrazioni progressive sulle prime case. Gianni Trovati, fin qua diciamo tutto bene, anche se la prima iniziativa è una tassa in più, diciamo, o meglio, la possibilità per i comuni di applicare un'aliquota in più, una tassa in più. Molti ci chiedono, ma perché si paga la TASI sulle prime case, visto che i comuni devono poter mettere detrazioni? La risposta sconsolata è sì, se no non vi sarebbero le detrazioni. Sì, esatto. Buonasera a tutti. Anzitutto, vabbè, diciamo così che il primo decreto del governo Renzi, oppure l'ultimo del governo Letta, a seconda se si guarda chi l'ha scritto e chi l'ha approvato, oltre a salvare Roma, Napoli, Reggio Calabria, Vicenza, eccetera, per tutte varie cose, si occupa anche della TASI e sostanzialmente traduce in norma questo aumento, questa addizionale ulteriore della TASI per finanziare le detrazioni, sempre sulla TASI per la prima casa. Risultato, si dice che la TASI sulla prima casa non potrà essere superiore, grazie a queste detrazioni, all'IMU che si è pagata nel 2012, il che è una buona notizia, perché vuol dire che la TASI appunto non costerà più dell'IMU. Magari qualcuno si porrà la domanda, perché abbiamo fatto tutto questo bailame, questa faticosissima riforma per superare, come si diceva, l'IMU, per poi pagare una TASI che sarà uguale per legge. Ma questo, diciamo, è una questione diversa. Il problema qual è? Che l'ulteriore problema, anzi, qual è? Che per finanziare queste detrazioni senza far saltare i conti dei comuni si è introdotto uno 0,8 aggiuntivo che si aggiunge ai limiti massimi della TASI già previsti dalla legge di stabilità. Dunque, la TASI potrà andare al 3,3 per mille sulla prima casa o, molto più probabilmente, visto che sulla prima casa dobbiamo fare sconti, all'11,4 per mille sugli altri immobili. Cosa sono gli altri immobili? Sono le seconde case, ma sono anche i negozi, sono i capannoni delle imprese, gli alberghi, i centri commerciali, sociali, gli uffici, cioè quelle tipologie di immobili che sostanzialmente hanno pagato praticamente tutto il rigonfiamento dall'ICI all'IMU. Ricordiamoci che l'ICI nel 2011 valeva circa 9 miliardi, 9,2, l'IMU del 2013, quindi esclusa la prima casa, valeva oltre 20, cioè più del doppio, e moltissimi comuni avevano alzato al massimo l'aliquota su questi immobili, il massimo che era il 10,6, il 10,6 era stato confermato come limite massimo dalla legge di stabilità, ma è bastato, diciamo, il giro di qualche settimana per sfondare questo limite e volare appunto all'11,4 per mille. Cosa vuol dire in pratica? Mettiamo un piccolo capannone che a Milano pagava 5.000 euro di ICI, ha pagato 10-11 mila euro di IMU l'anno scorso, si arriva a 12,5. Ecco, questo per dire due cose banalmente. Al di là della battaglia politica, era meglio tenersi l'ICI, nel senso che questo paese ogni volta che cerchi di levare un'imposta te la ritrovi quasi raddoppiata. Tu l'hai detto, io come dicono detto, testi molto più autorevoli dei nostri. Esatto, no? Per cui uno, due, attenzione, perché queste sono tasse, quasi non dico sul patrimonio perché sarebbe sbagliato, però sono tasse su settori produttivi che vanno comunque a incidere, e a questo punto avete fatto il Salva Roma, bene, fate anche il Salva Imprese o il Salva Italia, che così facciamo prima. No, il Salva Italia l'hanno già fatto. No, hai ragione, no, ti prego, che se penso al Salva Italia, cos'è arrivato addosso, era il Salva Italia ma ammazza italiani. Non ne sentiamo il bisogno in questo momento, con buona pace dell'ex Presidente del Consiglio Monti. Grazie a Gianni Trovati. Grazie a voi. Per quanto riguarda il contenuto del cosiddetto Jobs Act di Renzi, di cui, devo dire la verità, i dettagli sono un po', non è che siano estremamente chiari a me, noi verranno analizzati in tempo. La cosa importante da riconoscere è che la Fiat ormai ha preso gli accordi che ha preso con i sindacati, una serie di referendum, di accordi presi che hanno creato una base su cui andare avanti e portare il progetto industriale in Italia. Per noi queste altre manovre su cui sta lavorando Renzi avranno un impatto, ma non un impatto immediato, nel senso che il piano industriale nostro deve andare avanti e dobbiamo ritornare all'utilizzo di tutti i nostri dipendenti in Italia alla velocità della luce. Lo dobbiamo fare nel contesto di quello che è possibile in un gruppo che produce 4 milioni di vetture all'anno, di più, 4 milioni e 4, ma la cosa importante è riconoscere che l'impegno nostro è invariato anche senza il Jobs Act. Il Jobs Act ha un altro obiettivo, è quello in effetti di cercare di risolvere il problema del livello di disoccupazione in Italia e di attirare i capitali esteri. Noi abbiamo la grande fortuna di avere la Fiat Chrysler nel sistema già aziendale italiano, noi faremo il nostro meglio utilizzando quello che abbiamo e anche i nostri dipendenti per portare avanti il discorso al di fuori di quello che possa fare Renzi. Così parlò Sergio Marchionne da Ginevra nel primo giorno del Salone dell'Auto, del Salone Internazionale dell'Auto. C'è il nostro Andrea Malan. Andrea, buonasera. Buonasera. Nostro inviato del Sole 24 Ore, ci mancherebbe. Non abbiamo ancora fatto un'opa su di te, Andrea. Allora, no. Marchionne è molto prudente. Non voglio minimizzare il lavoro di Renzi, va appoggiato. La Fiat è sempre filo governativa, siamo sempre stati filo governativi. Non voglio dire niente se era necessario un cambio di governo o no. Non abbiamo mai lasciato l'Italia. Poi aggiunge John Elkann, la stabilità politica per noi dell'Italia è fondamentale. Forse un po' pigliatesco Marchionne, ma sul fronte produttivo invece alla Fiat ha presentato che cosa? Un mini SUV, ho capito bene? La Fiat ha presentato il mini SUV della Jeep, in realtà, che verrà prodotto a Melfi. Allora, la Fiat presenta il mini SUV della Jeep che viene prodotto a Melfi col marchio Jeep. Col marchio Jeep, sì, una Jeep col marchio Jeep. A fianco di quest'auto da Melfi uscirà, sei mesi dopo, la cosiddetta 500X, una 500 che non ha ancora un nome, farà parte della gamma 500, che è sulla stessa piattaforma ma avrà caratteristiche diverse. In sostanza sarà più quello che adesso si chiama un crossover, cioè un finto fuoristrada, una via di mezzo tra una berlina e un fuoristrada, che è uno dei segmenti che, ricordiamolo, tira di più sul mercato. L'operazione ha un senso soprattutto perché entrambi i modelli, la Jeep e la 500, dovranno essere anche esportati, e non solo in Europa, che è un po' l'unico modo di questi tempi di ridare vitalità a uno stabilimento come quello di Melfi, in una situazione in cui l'Italia, abbiamo visto, sì, c'è stata una lieve ripresa delle vendite di auto a febbraio, ma siamo sempre a livelli bassissimi, e come hai detto tu, Marchionne prevede che nei prossimi 2 o 3 anni non ci sarà una grande ripresa, quindi l'unico modo per far lavorare gli stabilimenti è esportare. Ricordiamo che proprio oggi la Fiat ha annunciato un altro periodo di cassa integrazione a Pomigliano, lì volevo arrivare, infatti, sì, per 1200, i 1200 lavoratori che sono ancora in cassa. Ricordiamo che di Panda, che è prodotta a Pomigliano, si doveva cercare di vendere 250.000 unità, l'anno scorso sono state 150.000 in Europa, e quindi di conseguenza Pomigliano non ha potuto riassorbire tutti i dipendenti, quindi molto dipende anche dal mercato. Potrei ricollegarmi al discorso fatto all'inizio sulle posizioni politiche di Marchionne. Potremmo sintetizzare dicendo che le eventuali misure che comunque potrebbero essere varate dal governo per ridurre la burocrazia, ridurre il carico fiscale, il cuneo fiscale, eccetera, di fatto andrebbero ad agevolare sì in generale gli investimenti, ma si scontrano poi con una congiuntura economica che certo non incoraggia a investire nel nostro paese. Ecco, sui modelli, vorrei tornare un attimo, tu citavi giustamente il nuovo mini SUV Renegade prodotto a Melfi. Sì, chiamarlo in italiano rinnegato non era il massimo, però la nuova Fiat 500X e poi Panda Cross e Fremont Cross e una van premiere dell'Alfa Romeo, la Spider. Ci sono aiutami a capire. Sono versioni, diciamo, speciali o comunque con qualche cambiamento di modelli esistenti. Quello che è stato presentato di totalmente nuovo, molto bello e molto interessante, è un concept della Maserati che si chiama Alfieri, come il fondatore, uno dei fondatori della Maserati, che è una coupé 2+2 che è piaciuta molto nello stand e che è stato detto da quelli Maserati potrebbe venire prodotta. Se venisse prodotta, ha detto Marchionne, andrà a Mirafiori, e questo è l'altro punto dolente della capacità produttiva Fiat in Italia. Sappiamo che a Mirafiori però si fa soltanto la Mito, la speranza per una ripresa produttiva sta, ha detto, soprattutto nella crescita della Maserati. Ancora per quello che riguarda appunto l'obiettivo sulla Jeep, per vendita della Jeep nel 2014 sale da 800.000 a 1.000.000. A 1.000.000 di unità, lo ha detto il CEO del brand Mike Manley. Mi dici in 30 secondi altre novità non del gruppo Fiat emerse oggi? Beh, la cosa più interessante sono la grande concorrenza nel campo del mini auto. La Renault ha presentato le auto da città, diciamo. La Renault ha presentato la nuova Twingo, che diciamo è stata resa un po' più somigliante alla 500, ma ha una sua personalità comunque. Tra l'altro ha 4 porte e ha il motore posteriore, che è una novità assoluta in questo segmento, cioè una novità assoluta di questi tempi. Ricordiamo che la prima 500 aveva il motore nello stesso segmento la Toyota ha presentato la Aygo e la Peugeot la 108, la Citroen la sua piccola, cioè le 3 vetture costruite nell'Europa dell'Est, nello stesso stabilimento, da queste 3 aziende. Quindi si preannuncia l'anno prossimo una concorrenza molto serrata in questo segmento, che è un altro di quelli che tengono relativamente bene. Grazie Andrea Malan, in collegamento con noi da Ginevra. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.